E visto che la chitarra e varie declinazioni dell'uso della sei corde sembra essere diventato un po' il tema principale di questa puntata di Up, noi procediamo con una band storica che anzi fu il mio primo concerto in quel di Udine allo Stadio Friuli. E era l'88 quando giunsero i Deep Purple nella formazione storica, cioè nella formazione Mark II, quella che sopravvisse l'arco di qualche anno. Infatti già un paio d'anni più tardi avrebbero cambiato di nuovo formazione, sarebbe nato via Ian Gillan, e insomma ebbi la fortuna in un certo senso di vedere la Mark II qui allo Stadio Friuli. Un concerto che ricordo bene fu un po' sfortunato perché iniziò molto in ritardo per problemi tecnici, aveva piovuto molto il giorno stesso, non sapevo neanche se cominciavano ancora un po'. Comunque fu un'ora e mezza abbastanza intensa, e il tour era quello di The House of Blue Light, con un'introduzione di John Lord. Il compianto John Lord apre l'intero lavoro, ed è un brano davvero memorabile, con un altrettanto memorabile assolo a metà canzone di Ritchie Blackmore. Quite the same, songbirds singing. Everything you see tonight is different from itself. Ogni cosa che vedrai stanotte è diversa da se stessa. È il titolo di uno dei brani forse più complessi registrati da The Clientele, una formazione come di cui abbiamo già parlato in passato, che ha pubblicato diversi lavori. Ed è una musica per l'età dei miracoli. Bellissimo titolo, Music for the Age of Miracles. Le loro copertine poi sono sempre particolarmente evocative, tra spettri, angeli, creature disperate e un panorama forse un po' così post contemporaneo, dove c'è ancora qualche rimasuglio di natura, ma in realtà è una natura un po' con una natura un po' trasfigurata da quello che succede, dagli eventi che stanno succedendo su questa terra. E penso che anche Clientele, che sono un po' nostalgici sia di sound che di liriche che di come persone, immagino, perché non penso che riescano a fare una musica così appunto evocativa e romantica essendo delle persone poi completamente diverse. Non lo credo e non oso pensarlo. E una band che comunque non cambia mai, ma ogni album è un piccolo tassello in un'opera davvero degna di nota, in quanto non delude mai. E a parte forse il nome di questa band, che ecco in questo caso non è particolarmente evocativo rispetto ai contenuti della musica e delle liriche di questa formazione inglese, è forse il particolare di minor conto nei confronti di quella che è una discografia davvero molto molto concreta e coerente, quella appunto dei Clientele, che sì, adesso viene avvalorata anche e resa appunto ancora più valida dall'uscita di questo Music for the Age of Miracles. To life. your clothes. Hear the same loving ghost. Sound of the rain with all your being. Said you never knew such rapture could stop your tiny eyes from seeing. When you turn out for fun that someone's playing a part that someone else is reading. Down hotel corridor, room 44. Before your arm was bleeding. Straight a breakout for the emerging surge of bleak ideas. And overhead the camera's idiot gaze, it just blinks and leers. When you apprehend the weekend that just ended has been gone for years. Die and laugh and cry all in the space of a second. When you hit the subtotal on your bill and still it was all so much more than you reckoned. When you stumble on the path of tears, don't crumble now, the future has beckoned.